5A. Ascolta e rispondi. Mi aiuti? Sì, ti aiuto volentieri. Mi aspetti? Sì, ti aspetto volentieri. Mi accompagni? Sì, ti accompagno volentieri. Mi ascolti? Sì, ti ascolto volentieri. Mi attendi? Sì, ti attendo volentieri. Mi guardi? Sì, ti guardo volentieri.